asta ce amarată s-a faccia la sorella e melodice nella troia è morta e si atterrata pianeva sempre accompagnata. Va nella chiesa e scopre l'uto avuto, vivere nella troia come tornata. Ma quella bocca che nasce nasciure, monnesce non li fierme, oh che pietà. Ti parlo chiaro mio abice cura, la lampa sempre tiene ci allumata. Sempre tiene ci allumata. Mm-hmm.